stavo andando al lavoro e niente, ho visto in autostazione appunto che avevano montato queste nuove panchine con i bracciali divisori, per cui invece che la classica panchina, come dire, orizzontale, eccetera, eccetera, questa panchina che separava tre posti a sedere, e niente, il classico intervento, è venuto subito il classico intervento, come tanti altri che sono ormai a Bologna da parecchio tempo, di allontanamento anti barboni, anti di questo tipo, e niente, insomma, è una cosa abbastanza indecente. Ho pensato di pubblicare una foto sui social, evidentemente, come dire, il mio pensiero non è solo mio, ma è quello di tanti. Il presidente dell'autostazione su Repubblica Bologna si giustifica dicendo che non c'era la volontà di, come dire, escludere i senza tetto, che fa parte di un restyling, tra l'altro le panchine non sono neanche nuove, hanno aggiunto quei braccioli. Tu cosa ne pensi di questa risposta? Ma mi sembra nascondersi dietro a un dito, come sempre, ma d'altronde, nel senso, io non ne faccio neanche una colpa del direttore, come dire, dell'autostazione. È evidente che è un trend, come dire, cittadino e nazionale, più che affermato, quello di fare la guerra ai poveri. D'altronde, come dire, l'espulsione dei senza tetto che dormivano lì vicino in Viale Masini, se non sbaglio, con sì, il divieto di dimora, insomma è stato commissionato sempre in città da differenti persone, ma pur sempre sotto la stessa logica, ecco, quella di cercare di nascondere o di espellere chi è povero e chi non ha nulla, chi non ha diritti, solo perché inquina e sporca la vetrina della città. Ecco, sembra una logica abbastanza assurda, molto dura. Allo stesso tempo, come dire, magari non l'autostazione, ma chi si occupa nella TPR, del trasporto pubblico, di quei luoghi lì, potrebbe pensare invece che sistemare le panchine a ridurre il costo del biglietto, ecco, per i tanti e tanti che lo prendono tutti i giorni. A me ha sorpreso la risposta appunto del presidente dell'autostazione, perché sembra quasi che questa architettura ostile, così viene definita, sia oramai stata assimilata, introiettata culturalmente, per cui uno non si rende neanche conto che mettendo dei braccioli alle panchine tu vai a, come dire, a ostacolare dei senza tetto. Ah sì, ma ci credo benissimo, nel senso, ormai è entrato nella normalità delle persone, come dire, non ci si rende neanche conto appunto di quello che si commette, lo si fa solo perché si sa bene idea appunto magari di cosa si stia facendo, appunto, però poi l'effetto c'è, gli effetti ci sono, ed è evidente che è un tipo di architettura appunto ostile che dovrebbe essere contrastata. Certo, la lotta alla povertà non si fa solo, soprattutto, cioè, con la lotta all'architettura ostile, però è un segnale molto chiaro, ecco, di qual è il sentimento del paese, di qual è il sentimento in chi gestisce queste cose, ecco. Una cosa che ho notato nel tuo post è che tu dici che queste panchine non sono funzionali nemmeno ai clienti, diciamo ai passeggeri normali, no? Solo tre persone si possono sedere, mentre magari potevano sedersene di più. Sì, guarda, penso a questo pensiero, io penso che l'abbiano fatto tante altre persone durante tutto l'arco di questi giorni, cioè evidentemente che, non lo so, a me sembra poco pensato, poco ragionato, appunto anche per questi motivi, nel senso, cioè, anche dall'autostazione passano tante scolaresche, tanti ragazzi che vanno a scuola, non so se hanno bisogno di essere divisi per spazi, per tre spazi tutti quanti, ecco. Sembra un po' strano, un po' assurdo. Dopodiché, appunto, si tratta di architettura ostile, che mira a espellere, lo sappiamo benissimo, ecco.